Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Ruggero di Bolo by Night e 404 Music Group, che è in collegamento con noi per parlare di una serata che si terrà questo venerdì 19 novembre. Ciao Ruggero, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato. Grazie. Ruggero, volevo iniziare questa intervista innanzitutto chiedendoti che cos'è Bolo by Night. Allora, Bolo by Night è un evento che nasce principalmente per dare la possibilità agli emergenti della zona di Bologna, e non solo, chiaramente, e dare la possibilità a loro di farsi conoscere dopo comunque anni di fermo, visto la pandemia globale. Questi ragazzi non hanno la possibilità, come in altre città, di farsi conoscere, e noi abbiamo cercato di creare, insieme a Fabiano Inoki, che è, diciamo, artista a livello nazionale, comunque riconosciuto, stimato da tutti, e abbiamo deciso di dare la possibilità appunto anche a chi non ha le possibilità di farsi conoscere, molto semplicemente. E quindi abbiamo creato il Bolo by Night, che è proprio un'esigenza, secondo me, per la cultura storica del settore, soprattutto a Bologna. Il nostro obiettivo è un po' quella di riportarla alle vecchie radici. Noi eravamo un po' il fulcro, diciamo, del settore in Italia. Stiamo cercando appunto di dar luce nuovamente a una città che merita tantissimo. Bolo by Night si terrà questo venerdì 19 novembre all'Estragon, e ti chiedo quali saranno i protagonisti di questa serata, se puoi farci qualche nome. Allora, certo, assolutamente. Noi durante la serata, proprio come già anticipavo, noi daremo la possibilità sicuramente a degli emergenti di esibirsi. Infatti abbiamo svolto diversi contest sulla nostra pagina Instagram, dove davamo la possibilità comunque a chiunque di poter partecipare a un contest per essere selezionato e potersi esibire. E abbiamo creato appunto due contest, uno col voto del pubblico, l'altro selezionati dallo staff, diciamo, delle dette ai lavori e da Fabiano Inoki. Quindi ci sarà un open mic con diciamo una decina di artisti, in più ci saranno delle aperture di artisti un po' più importanti, diciamo, nella scena bolognese, come magari può essere Mido, UM Flow. Ci sarà Macello, ci sarà Jayan, ci saranno dei ragazzi comunque molto validi anche all'apertura, appunto, dello stesso Paki, che è lo special guest della serata. Tu hai citato prima l'open mic e una serie di contest, e ti chiedo se hai voglia di raccontarci nello specifico di che cosa trattano questi contest e come è possibile partecipare, e se è ancora possibile farlo. Allora, gli open mic sono chiusi dalle 14 di oggi, quindi non è più possibile partecipare. Però l'open mic l'abbiamo un pochino stravolto, visto che attualmente non siamo pienamente sbloccati, però il nostro piacere è quello di ritornare un po' indietro col tempo e fare le serate proprio come si facevano un tempo, hip hop, con un open mic, con le persone che si iscrivevano ai contest per partecipare. Cioè, la nostra voglia è proprio quello di riportare le radici dell'hip hop ad alto livello, come i tempi. Ovviamente noi siamo tutti giovani, quindi il nostro metodo di lavoro chiaramente non è tra virgolette antiquato, però vogliamo sicuramente portare rispetto a quello che è stato, bene o male, questo settore dall'inizio degli anni 90. Ti faccio l'ultima domanda, questa proiettata invece un po' sul futuro. Avete già in progetto altri Bolo by Night o comunque altri momenti in cui sarà possibile, diciamo, ritornare a creare un momento collettivo musicale molto forte? Assolutamente sì, noi appunto non svolgeremo solo dei Bolo by Night, ma ci sposteremo anche in diverse città. Per citarne una, il 20 di novembre, sabato 20 novembre, saremo a Royal Disco, che è a Ravenna, e quindi faremo la Ravenna by Night in quel caso. Quindi sì, ci saranno tantissime possibilità, anche non solo a Bologna. Con il tempo chiaramente riusciremo a organizzare la stessa cosa che organizziamo a Bologna e anche in altre città, ma proprio chiamando anche proprio emergenti del posto, proprio per risaltare loro principalmente. E mentre di ufficiale, diciamo, di Bolo by Night, che quindi a Bologna e stiamo programmando un evento molto grosso per dicembre, circa fine dicembre. Ruggero, io ti ringrazio, chiaramente invito tutte e tutti a partecipare alla serata Bolo by Night di questo venerdì 19 novembre all'Estragon e ancora grazie. Grazie a te, è stato un piacere.